C'è qualcuno in questo canile? Controllo per favore, Radio Santiago, grazie. Ora, ora, ora, ora, attenzione, canale 5, ora, ora. Chi è Avan? Non stai uscendo. Chi è avanti? Prova radio, grazie. Buonasera, sto usando un portatile, dai, che avevo fermo da un po' di anni. E l'altro giorno non andava bene, ma sicuramente era lo spinotto che non, perché c'è un riduttore che stava dando problemi. Invece adesso vedo che sta uscendo con 5 passi per tutti, dai. E la cosa segnale com'è? Gianni Capri 2, ricordati Capri 2 l'apparato. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, amici. Ora, ora, ora, ora. C'è qualcuno? Ora. Stavo parlando, Ale, un attimino. Marco, io adesso ho provato con la segretaria, guarda come va. Cappa Marco, dai. C'è l'Alessio che voleva entrare forse, avanti Ale. C'era l'Alessio, era. Boh, ascolta un attimino che sto facendo una regolazione, Marco. Ok. Andare, così è riuscito. Sempre girellone. Cappa, cappa, Marco. Vabbè, comunque diciamo che stai andando molto bene anche tu. Vorrei essere lì a Campomera che ascolto bene, se no sei con la radio della 27, che sei con la radio amatoriale, stai andando bene. Dammi un secondo, Marco. 5 guardi sto là. Brecchi. Avanti, Brecchi. Ciao, buonasera, Gianni, Fabrizio, ascolta. Prova a... Poi mi dico che stai parlando perché non sento. Marco, se Marco... se Marco Condo io non ascolto. Come mi stai ascoltando? Ho già. Qua adesso ti sto ascoltando col portatile e ti ascolto bene. È Marco Scorpio, non Condo. È Marco Scorpio. Sta arrivando bene qua, forse tu diciamo la ricezione con quell'antenna non è delle migliori, ma io lo ascolto. Io lo sento, strano. Va bene, ok, quindi com'è la modulazione? Mi piace sapere perché so, lo fanno sta parecchio, l'ho tutto pulito, l'ho aperto, già c'è una stocca di Mondezza dentro. Un apparecchio recuperato dalla Mondezza o già? No, va benissimo, anche oggi era la giornata, anche io stavo ripristinando gli apparecchi. Ho tolto il Miran Alan 48 Plus, che praticamente aveva tutti i tastini che non funzionavano, non funzionava né quello MFM, non funzionavano i tasti CDPA, cioè erano tutti bloccati. Gli ho messo un po' di spray, si è ripristinato alla grande, tutto quanto funziona. Eia, eia. No, questo è un apparato che mi hanno dato, ce l'avevo già io uguale, però era, deve essere buttato in qualche cantina, tutto sporco dentro, tutto aperto, l'ho pulito io con un po' di col compressore, pennellino, però c'è un problema, c'è leggermente scheggiato il display, però dalla parte, meno male che era verso l'angolo, così non mi copre i numeri, capito? Da 45 watt e AM, questo è da poco. La modulazione è questa, perché il microfono è normale. No, già è bella presente, è una bella modulazione. Ma ascolta, ma tu a me come mi ascolti invece? La radio com'è? Questo qui è un portatile della Intec, quello famoso SOS, come mi ascolti? Io ti ascolto perfettamente, Santiago 8 e Radio 5 è perfetta. La modulazione, bella, bella di lusso. Marco, avanti, dove sei arrivato? Attento Marco Scorpio, dove sei? Buonasera. Eia, ciao Cla. Buonasera a tutti. Ciao Cla. Cappa, ti ho chiamato per vedere dove eri arrivato, dai. Stai arrivando veramente bene lo stesso, dai. Claudio, lo sai che cos'era il problema del portatile? Era il riduttore che c'è per attaccare il coso, che il PL, che non andava più bene, dai. Ho cambiato il riduttore e va alla grande, dai, 5 watt che sta affarito. Cappa, buonasera anche a Marco Scorpio, ben ascoltato. Ciao, ho il segnale era basso, qualcosa c'era che non andava. Qualcosa c'era che non andava. Adesso il tuo segnale come baracchino normale, 9 più 20. Idem per Marco, la stessa cosa, 9,20 abbondante, ma sei uscito adesso dalle gallerie di fronte a me. Avanti Marco, buonasera. Sentivo anche mascherato, adesso prima l'ho sentito bassissimo prima le gallerie, ma adesso già sicuramente non ci sono problemi. Gianni, quella portatile funziona molto bene. Che tipo di portatile, che tipo di portatile è Gianni? Quelli recenti o quelli vecchi con la manopola che praticamente c'ha il vetrino? No, è di quelli vintage SOS, te la ricordi la valigetta SOS con la bandierina dentro che facevano anche il Maxon così? Io c'ho quello della Intec. Intec praticamente c'ha l'up down come per girare i canali, la manopola tipo le radioline vecchie per aumentare il volume, ed è un bel apparato, si può attaccare, c'è l'antenna con la calamita, puoi attaccarlo sulla macchina e farti praticamente una stazione mobile veloce, capito? Sì, sì, lo conosco benissimo. Negli anni 95, con le, perché l'anciopericolo c'era qualcosa di arcione, sì, il cavettino con la base magnetica e lo stilo che, se non ricordo male, era stilo cromato. Quella versione lì l'avevano fatta, l'hanno commercializzata come Intec, però c'era già un modello similare che era ancora più vecchio che con gli Stati Uniti. Molto Valtteri se ne ha comprato un pacco di quelli molto, molto simpatici, cioè con un apparecchio che già è proprio il discorso di poter fare un'attivazione veloce con una macchina corrente da 100 sigari e basettina magnifica. Vai, va bene, allora antenna mascherata, non so se mi riceve, altrimenti fai girare tu. Ma già ti ascolto Marco, già ti ascolto adesso. Ok, buonasera, ti ho ascoltato. Sì, io ne ho un paio di quelli, due o tre di quelli ho già. C'ho un Zodiac, non so se te lo ricordi, programma con la come si chiama? Con l'antenna tipo quella della polizia, usavano la polizia in gomma grande. E poi era color celeste, sono ricordo, un celestino, grande, tutto in metallo. Sì, sì, me lo ricordo, lo conosco, quegli apparecchi a me piacevano tanto, lo stavo cercando un periodo, poi ho smesso perché mi è passata la buglia. Li ho cercati intanto, quegli apparecchi a me piacevano molto, più portatili, che avevano l'antenna che partiva grossa, era lunga, fina, tipo sì, il toccai mi piaceva tantissimo. Lo Zodiac, tutti quegli apparati lì, sono la parte che a me fa sempre piacere. Volevo farmi un po' di collezione di questi portatili, poi ho lasciato perdere perché non li ho trovato come li volevo io, ne ho comprato uno e praticamente era tutto oscillato, lascia perdere. E vabbè, allora ho opzionato per questo. Vabbè, oggi è la giornata degli aggiustaggi. Allora, prima cosa, indovina cos'era l'antenna della macchina, Clark? Che cos'era? PL staccato dal baracchino. Dietro, controlla bene qualcosa, perché l'ultima volta ti ho sentito eri una bombarda, quindi insomma non è che si può rovinare così in 5 minuti tutto il lavoro fatto bene. Sì, quel portatile che stavi cercando tutti i ricordi ce l'avevo io, è ancora dentro una cassetta sui mansarda, però non penso che non funzioni, perché una volta ero su, l'ho acceso e non accendeva più, non so perché. Poi un altro, mi pare Marco, uno l'avevo dato a te o a Walter di quei portatili, però non era Intec, che cos'era? Midland? Sì, una no, mi pare che è un Intec, adesso non mi ricordo perché ne avevo altri di quel tipo lì similare, però marcato in altro modo, forse era Intec, sì, che c'hanno il controllo nella parte alta, funziona, sono simili, ma Adesso sto parlando col Midland resumato dopo tanti anni, dai, la fermo perché mi dicevano tutti che avevano una brutta radio, l'ho fermato. Gianni, sì, mi ricordo, era... Sì, non mi ricordo neanche io che marca fosse, però mi ricordo c'era il display piccolino verde, il coso a TTTTT a canali, era 40 canali quello, non mi ricordo se l'ho fatto a te o a te. Sì Gianni, effettivamente ti posso dire che non so se poi Marco ti confermerà, però questo per essere un Midland cos'è? Il 58 così, un 68SX, non so, vabbè, adesso un baracchino vero e proprio. Rispetto al portatile, ti posso garantire che il portatile come radio è 100.000 volte superiore. Fabrizio, come lo senti tu? Meglio o peggio? No ragazzi, o peggio, è una radio più cupa, l'altra è molto bella, più cullante, più aperta. Questa è cupa già, ha ragione Claudio, quell'altra è molto 10 volte meglio. Questo apparato io lo so con che microfono si sposa col MB più 5 e va alla grande, si sente una radio. Mi ricordo che una volta mi ha chiamato mia moglie da casa perché stavo ritornando al lavoro, c'era una radio squillante, forte, ma proprio una bomba era. Ma io che cupa, proprio cupa. No, io l'ho resumato, Marco, perché questa radio qua, prima di lasciare le cose, si blocca, cioè va tutti i casi bloccati, lockdown, la MFM non funzionava, e ho tutto ripristinato, adesso funziona tutto perfettamente, era solo perché era fermo, capito la farina. Vabbè, era tanto per farlo scaldare, per farlo girare un po', questo che è quello omologato che c'è in concessione. Ok dai, questo invece è il DAC, anni 70, e microfono MB più 5, giusto per farlo sentire a Marco se secondo lui si assomiglia al 440. Purtroppo la mia voce è quella. È un discorso l'altro giorno Massimiliano, però non c'è niente da fare. Fabrizio, come mi ascolti tu col DAC anni 70 MB più 5? Illustro Claudio, bellissima voce, bella squillante, vabbè, tu puoi usare anche un pezzo di legno, la tua voce è sempre quella lì, comunque va molto bene. No, per dire a Gianni che appunto se gli abbinamenti sono giusti, non c'è niente da fare. L'altro giorno ho attaccato il tanner più 3 già, ma lo crepo di modulazione il DAC, perché è troppo acuta la modulazione, troppo acuta, gli ho rimesso nuovamente l'MB più 5, è troppo acuta, troppo forte, non fa, lo devo tenere a zero praticamente, capite? Perché Gianni sicuramente sta cambiando il radio. No, ho detto a Gianni, adesso ho commutato al DAC. C'avevo prima il timer più 3, ma lo stavo uccidendo. Praticamente il modulometro impazziva, perché la mia modulazione è talmente forte che il timer più 3 c'ha degli acuti micidiali. Allora gli ho rimesso l'MB più 5. E questo è il risultato. Adesso sto andando col DAC e l'MB più 5. Per dire a Gianni che gli abbinamenti, se sono validi o non validi, a volte dipende anche dall'operatore, dalla voce dell'operatore, Marco, capito? Non in tutti i casi, Claudio. Cambi. Infatti, è proprio così. No, io il DAC l'ho proprio tutto ripristinato. Mi hanno procurato le valvole, le ho rimesse nuove, sono da quasi 25 watt alla massima potenza, 5,25. Il microfono è l'MB più 5, perché ti ripeto, il più 3 è troppo acuto per me, e allora devo usare il più 5 con appena i toni strozzati, infatti ce li ho a 3 toni e il microfono è neanche a metà. Ok, va bene, Gianni, a te il cambio, allora poi vai per Fabrizio Mascherato. buonasera, ho cambiato radio adesso, come mi ascoltate? Cambio. Come ti ascoltiamo? Io ti ascolto benissimo, sai bene che io sono ormai abituato a sentirti con questo leggero eco, questa leggera modulazione, quindi per me va bene. Ottimo per la truppa, avanti Fabrizio. Già, esce bene anche con questa radio, benissimo. Allora ragazzi, anche vi saluto e devo uscire. Ciao Claudio, mi ha fatto piacere sentirti, ciao Gianni, e saluto a Marco, che io sento basso basso, deve essere in movimento. Effettivamente mi ho salutati. Avanti Claudio. Sì, capa, ciao Fabri, allora ci sentiamo le prossime, ci aggiorniamo. Quando vuoi, due chiacchiere, noi siamo sempre qua. Avanti Marco. Marcelle, okay. Ciao Fabrizio, allora le prossime. Molto bene. Gianni, come va? Come sempre quel tipo di emissione, ecco, no? Come ha detto Claudio, con un po' di effetto eco verbero, un eco con reverbero, con effetto psico e ricordo, una roba del genere. Io sono arrivato a cercare per me. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo, buona serata, dai. E diciamo, poi se vuoi entrare già siamo qua. Camba. Avanti Claudio. Kappa, ciao Marco, buon rilassamento, allora se ti vuoi fare due chiacchiere dopo siamo qua. A presto, riascoltarci. Oddio, ma lo dai un segnale così con questo apparecchio? Gianni, cambio quella un po' più professionale, perché ti sto ascoltando con DAC che sei quasi a fondo scala, 9.30, ma non penso che sul 4.40 sia così segnale, aspetta che comuto. Ma pensa, vuoi vedere com'è, dai. Oggi mi ringaggio in terra, l'ho messo così posticciamente, dai, perché ho fatto quel lavoro alla macchina, adesso devo controllare bene le stazionarie con l'apparecchio e poi lo piatto. No, ce l'ho messo un po' perché chiaramente la radio l'ho esposto, non di banda, cioè, per rientro. Vieni avanti. Guarda, 1, 2, 3, prova, cambi. Attenzione Claudio, se ascolti il doppio run che chiama, cambi. Guarda, ti devo dire che sì, quasi, ma pensavo fosse un po' più sfasato lo smitter del DAC, là mi segnava 9.30 proprio la tacchetta del 9.30, qua sei 9.30 quando parli, quindi diciamo che c'è pochissima differenza, ottimo segnale, caspita, ma sei agganciato, no? Vabbè, sto usando l'apparecchio che c'è in mano. No, quasi 9.30, sì Gianni, proprio manca un pelino della portante bianca, però quando parli vai sul 30 e sei quasi uguale al CP, che di questa prova non l'avevo mai fatta, quindi è abbastanza affidabile lo strumento del DAC. Che ti è successo? Gianni? Hello Gianni? Pablo? Via. Aspetta, mi è passato, faccio prove di mille apparati, adesso mi è passato. Cosa stai usando adesso? La chicca capellina. Sciogli, perdi 8 dB, perdi, Madonna santa. Questo qua è, grazie. 8 dB perdi. 8 dB, sì, 9 più 20, giusto, là eri quasi 30, proprio, diciamo ti do 30 perché come parlavi andavi a 30, portante bianca eri 28, 27. Voglio essere sincero, prima c'era anche l'aiuto. Ho capito, no, ma non avevo mai fatto questa comparazione, DAC 440, abbastanza affidabile con lo strumento, perché lì eri 30 pieno, non, praticamente non avevi nessun movimento, mentre sul 440 il 30 arrivava quando parlavi, però abbastanza affidabile a CP, che dopo tanti anni io quello non l'ho mai toccato, non so manco dove si tocca, solo sostituito le valvole e data una bella pulita dentro, poi un po' di spray sui potenziali. potenziometri, insomma le solite cosette che si fanno alle radio, però abbastanza affidabile. E se ti racconto cosa mi hanno fatto le cornacchie oggi non ci credo. Lascia prendere che sto impazzendo, ero un mese che non salivo sul tetto, stamattina era una giornata splendida, anche ieri, bellissima, ho detto ma voglio salire su, vedere, darla controllata, eccetera. Ho completamente il terrazzo, sembra che sia stato bitumato da poco, ma non dai corvi, non tanto dai corvi, da quel cacchio di uccelli che vanno lì, di storni, con gli storni. Le antenne non vogliono viste, sono completamente nere. Adesso l'unica cosa che posso fare a periodo buono è abbassare nuovamente tutto e darle una pulita con qualcosa che insomma me le renda, ma fanno veramente schifo. Guarda, ti ricordi che io ci avevo dato una centrocapotta, è rimasto il buco, io l'avevo tappato, ho messo quei tappi che si mettono per i buchi e poi l'avevo coperto tutto il silicone nero per evitare di entrare acqua, non l'ho messa prima, l'ho attaccato col silicone, poi l'ho messa attorno e poi l'ho messa anche sopra, l'ho fatto scuro, diciamo come la macchina, perché era praticamente cromato. Beh, oggi vado in macchina e vedo tutti i pezzettini di silicone sulla capota, mi hanno praticamente mangiato tutto il silicone e mi hanno staccato tutto. Già, sono micidiali. Io ho quest'estate scorsa, passata praticamente, quando ho avuto un po' di tempo di ferie, ho dovuto comprare il corrugato, ok, sai, i cavi sono tutti quelli che scendono poi nella canala, sono fascettati, tutti in ordine, eccetera. Si hanno mangiato tutte le fascette e qualche, a volte hanno beccato anche i cavi, quindi ho vulcanizzato il cavo dove era bucato col becco beccato, e fascette non ce n'era manco più una, tutti i pezzettini, cioè allucinante. Ho dovuto comprare un 4 metri di corrugato e portarlo sino praticamente alla canala, tutto l'ho aperto in due con la forbice, perché sennò come fai a farlo entrare, mi toccava attaccare tutti i cavi eccetera, aperto a metà con la forbice, messo dentro i cavi, chiuso, e anziché le fascette di nuovo per congiungere bene il corrugato, ho messo del nastro isolante molto grosso, capito? Ci sono io le cornacchie, i piccioni, ma soprattutto gli storni, come mi hanno fatto il terrazzo, da paura, sembra bitumato, è tutto nero, le antenne non vogliono viste, poi tutto dalla parte dove sono le direttive, perché loro si ammucchiano tutti lì, capito? Dove c'è la Mantova non c'è niente, pulitissimo. Io guarda, ho avuto anche il dubbio che fosse qualche rispetto, ma chi si mette a farti rispetto così? Tanto poi mi ha dato la conferma, sono girato attorno alla macchina e non mi vedo questa cagata che partiva dal tetto della macchina, sino a tutto lo sportello, immaginati, più che la burraccia a noi. Già, sono micidiali, sono dei volati così schifosi, anche perché mangiano di tutto, lo sai, ma soprattutto come sporcano in una maniera allucinante. Io mi ricordo che al 147 c'era proprio la cosa del piccione, forse, o del corvo, non lo so, e poi dopo la togo, cioè, si è seccata, sono andato al mio genero perché non avevo voglia, l'ho trovato, gli ho detto da lì ho una sciacquata a questa macchina, Mario, fa schifo. Me l'ha sciacquata, proprio una passata di pulivapor veloce, è rimasto il segno della sporcizia, l'ha dovuto togliere col polis, non con la pasta abrasiva, col polis, perché ha lasciato proprio la macchia. Ehi, lascia la roba, non lo sai che brucia la vendita, brucia, e te la sta bene se riuscito, perché di solito brucia trasparente, capito? Se lo brucia proprio, infatti gli ho buttato solo un po' d'acqua, gli ho messo un po' di glassa per scioglierla e poi l'ho pulita, perché se no ti lascia il segno. E vabbè che la mia già è vecchia la macchina, però ci tengo ancora, non me la fa più. Io vabbè, la mia non è nuova, ci tengo come te, lo sai, però caspita, è una cosa veramente se capita saliamo sulla cima e ti spaventi, non so come pulire, come la faccio, perché su acqua non ce n'è, non ce n'è acqua su Massala, ci fosse stata l'acqua, c'è tutto pronto, allaccio, tutto, ma l'acqua non ce n'è, ci fosse stata l'acqua avrei attaccato la pompa, avrei pulito la scopa, tutto, lo spazzolone, eccetera, ma non c'è acqua, non devo portare secchi, controsecchi, qui non me ne frega niente, però se piove salgo e le do una passata di scopa, poi l'acqua piovana ci porta tutto giù nella canale, capito, nel pozzetto giù. No, impressionante, ma mi fa schifo solo a vederlo, ma non male che non ci abita nessuno, ma è veramente impressionante. Le antenne poi non vogliono viste come si appoggia, ma non tanto le antenne perché si appoggiano con le zampe e sporcano sotto dove c'è tutta la parte dei cavi, le cose, tutto sporcizia, una cosa allucinante. Ho pulito la scopa, ma quello secco è uscito, ma le macchie sono rimaste, veramente schifoso, una cosa schifosa. E comunque me l'ha fatta tutta questa etilica, no? Ho trovato tutti i piccoli setti, tutti quanti staccati, appesi, tutta la forma, proprio l'ha staccato dalla cosa, ho dovuto togliere con le, come si chiama, con la padinina, ho dovuto togliere, che è dura anche con la padinina, mentre io non so come ti batte, è dura anche con la padinina, ho dovuto togliere di nuovo e mi fare tutto da capo stasera. Oggi ero proprio di lavoro, di lavorare, di fare qualche cosa, ma vorrei guardarmi le radio, le pulire tutto, cioè abbigliato così, ogni tanto mi prendono, ogni tanto di ripulire le radio, di mettermi i nostri contatti nei punti strategici, eccetera, ogni tanto me la faccio queste manutenzioni, anche con le canne da pesca, anche come sono con le canne da pesca, mi metto il grasso, il mulinello, lo smonto, mi metto il grasso, prima di metterci il recipro, pulisco tutto quanto e poi rimetto il grasso e per il prossimo anno è a posto. Non le trascuro, anche se non le sto usando non le trascuro, perché poi magari mi viene in mente di andare di colpo e mi piace che siano efficienti. Ma con le manutenzioni già ne sono fatto due la settimana scorsa, sia il 430 che lo uso un po' meno, l'ho aperto, ho fatto un passettino di spray, ho visto se c'era polvere nella cosa lì, nella ventola, anche il 140 gli ho dato una pulitina alla ventola con lo spray, quello insomma che pulisce, eccetera, le cose già le fanno. Anche qua del DAC lo stesso l'ho fatto tutto, ero senza far niente, ma sono tutto pulito, sistemato, eccetera. Vabbè, cose di manutenzione. No, qua da poco ne ho fatto tutto, proprio tutte le radio, messe per terra, pulite tutte le mensole, rimontato tutto, perché qua non tocca niente a nessuno. E cose normali che fai per la pulizia, capito? No, ma su, proprio sono salito, sai, quei giorni di maestrale, quelle cose, l'impianto è perfettamente a posto, non ho avuto nessun problema né niente, ma mi sono spaventato per la sporcizia che c'è dei piccioni, dei corvi, di questi cacchio di stormi, un casino, e vabbè, pazienza, io devo fare una cosa che appresso agli uccelli. A parte tutto, visto che stiamo parlando di manutenzione, tu lo sai se Roberto Quadrato fa i fari delle macchine, se li lucida? Penso di sì, non lo so, io ce l'ho anche stamattina, Roberto. Penso di sì, però specifici penso per fari è quello di Via Pascoli, Galgrasso, quella cosa lì. Ne fa anche mio genero, ad esempio, si è preso tutta l'attrezzatura per fare i fari all'autolavaggio, mi pare che prenda 20 euro a fare una cosa del genere. Aspetto che prendono più o meno tutti. Perché devo fare la revisione della macchina, l'ho fatto ieri, sono andato a pagare l'assicurazione, già ho risparmiato 50 euro da un'assicurazione all'altra. 50, 60 euro, non 50, 60. E guardate, mi prende, dove controllare la revisione, perché diceva, visto che ho ripreso in mano, dice sì, la deve fare a febbraio. E adesso vi faccio lucidare i fari perché sono un po' pacchi, non tantissimo, però appena sono pacchi. I miei fari sono tutti due lunghi perché praticamente li avevo cambiati, quando mi hanno dato un colpo, questo qua, e tornando a retromarcia, che ma che me la faccia tutti in bar. E quindi uno praticamente l'avevo messo di quelli per un vecchio, però l'attacco uno, un attacco è spaccato, ma gli altri tre tengono, cosa me la faccio? Però la macchina non è nuova, cosa la faccio? Ho speso 150 euro per un fa. No, se tiene bene lascia stare così. No, i miei sono originali. Era 147, però li ha già lucidati una volta Mario, capito? Me li ha già lucidati una volta e sono perfetti, sembrano nuovi luffi. Mentre quelli della 600 me li ha cambiati Roberto, quelli erano, le parabole erano rotte, quindi non si vedeva un cacchio. Era poi io che stavo viaggiando a Sorso e allora mi ha mandato a nome suo alla UPAS e mi avevano fatto un buono sconto, li avevo comprati nuovi e me li aveva piazzati lui. Non so, prova a passarci se te li fa Roberto, ma penso che comunque li facciano, penso. I carrozzieri li fanno queste cose, se no mi fai sapere, vai giù da mio genero e te li fai fare. No, è a Predagneta, a capo non è a Predagneta adesso. E dove c'è, insieme a Roberto Salis, dove c'era prima l'auto Young? Non so da che parte era l'altro, io non lo ricordo. Dove c'è l'OSA? Dove c'è l'officina di Walter, proprio di fronte a Walter? C'era il capannone dell'Auto Young, c'è la consigliera di Roberto, e poi c'è lui a fianco, capito? No, non ci stava più oggi, ci stava più perché ha preso anche a parte di furgoni, i consiglieri che portavano furgoni, e no, non ci stava, capito? Troppo piccolo. Con Roberto e ci aveva al posto proprio il capannone abbastanza grande, ne ha dato la metà. Allora, sì, cosa già lo so, comunque. Di fronte alla centrale dell'Ape vai dritto, poi la prima traversa a destra. Sì, cosa sì. La prima a destra, proprio. Ma in fondo dove c'è il piazzale, ci sono due cancelli, uno della concessionaria e l'altro dell'autolavaggio. Entri dentro e. Ma poi lo dici a me, ci andiamo assieme, no? Però prima vai da Roberto, chiedi a Roberto se te li fa, se non mi fai sapere. Andare. È una gran bella radio, Galaxy, io ce l'avevo, ma purtroppo non ce l'ho più, troppo spazio, era sempre lì sopra il DAC, adesso sopra il DAC c'è metà linea del 430 perché la famiglia è aumentata e quindi gli spazi sono, è vero, vorrei mangiare a Filippo. Gli spazi sono quelli già, quindi il DAC è sacrificato, ma il DAC è il Galaxy sacrificato. Va. Dammi 2 secondi che do a mangiare a Filippo. Ehi, mamma, guarda Pignano, non c'è sentito oggi. Non ho inteso valuta, deve essere che è ancora lui. Non so, ieri stavamo parlando, poi era un po' così. Venuto un po' di malumore, non so per che cosa, ma sentiamo domani, salvo complicazioni, se non c'è di nuovo la zia che gli ha legato le scarpe, non lo so, dammi 2 secondi, ma non sento neanche Natalino ancora, non lo so, vabbè, dammi 2 secondi e arrivo subito. Te la ricordi col film della Bucia Bue che prendo il bagnale e faceva volare? Vedi, secondo me Marco sai cosa sta mangiando? Sta mangiando perché ha fatto anche il routino, vero Marco? No, veramente ho fatto... Sono tornato a casa in questo momento. Caspita, mi sono provato lo scanner per ricevere radioamatori. Guarda, tutta la sera ricevendo ero. Niente. Che il diavolo se li porti. Poi sei entrato, ho sentito Gio Maria modulare, ho attaccato subito il portatile, ho chiamato, niente. 2 morti di sonno, niente, non rispondevano. Stacco la radio, rimetto lo scanner di nuovo, a modulare. Per carità, non ne vale proprio la pena. Non mi ascoltate, ma non vale più la pena perché la parte amatoriale, la gente c'è. c'è, ma è impegnata in altre cose, non è più come prima, gli impegni sono tanti, c'è una parte nella quale, con la quale si dedicano molto alla parte digitale, quindi un po' in stato abbandono, ma non è che non c'è nessuno, c'è anche poc'anzi c'era Marco, visto che ha fatto due chiamate in banda Matteo, poi è entrato anche qua a salutarci, quindi la gente c'è, Marco, però purtroppo gli impegni magari sono aumentati, le cose, capito? In due secondi ti lascio con Gianni che vado a dare a mangiare a Filippo, ok? Ciao! Ui, sono ancora sotto shock. Ciao Gianni, ci ho passato dalla Budi Budi, già stavo sbagliando, mi è venuto un attimo di panico con questi cartelli tutti diversi, scendendo, non lo so, mi era venuto il dubbio che non stessi entrando contromano, il panico è venuto per un attimo. Cartelli, cartellini, cartelloni, ma quando è che la finiscono? Siete 20 anni che state facendo il capo di Budi, non la finiscono mai. E vabbè, sono andato a vedermi un po' il mare, eccetera, mi sono preso un caffè. Ah, hanno rovinato anche la discesa a mare, quella attaccata al... come si chiama? Lido? Boh, non mi ricordo. Dove ci sono due bar, uno di fronte all'altro. Hanno bloccato, hanno chiuso, hanno messo un'area pedonale ancora da ripulire perché era piena di sabbia. Tutto cemento, pilastri. A questi sommati, quello del sindaco di Sorso, la giunta di Sorso e il sindaco di Sorso, che deve essere bancato al cranio, perché la gente d'estate vuole parcheggi, non ne vuole marciapiedi ovunque, dove non puoi parcheggiare, ma questi sono dei coglioni emeriti. Ciao ragazzi, buonasera, Franco. Ciao Franco, un compagno di Marco di Gianni che non riprende, è rimasto scioccato. La tua parolaccia? No, perché hai scurato il telefono, ma se non mi danno il tempo di rispondere. Ciao Gianni, ciao anche a te. Sono stato anche Claudia, ma forse stava già andando ad andare a mangiare il cane. Eia, e così hanno rovinato un'altra discesa a mare, dai. Proprio bisogna pigliarlo questo sindaco di Sorso da solo, però mico, quando non c'è nessuno in giro, dargli una sussa da lasciarlo in sedia a rotelle, ci vorrebbe proprio. Io non so che cervello baccato hanno a Sorso, non lo so. Rovinato già il quinto pettine, il quarto pettine, adesso hanno rovinato anche quello adiacente al villaggio, come si dice, al centro commerciale, dove c'erano due bar, una a destra e una a sinistra sul mare. Sì, al terzo pettine. Lei non è proprio terzo pettine, è più verso la rotonda, all'incrocio del terzo piede, più verso la rotonda, no? Che ci ha attaccato un villaggio, non so, rosso, grigio, non so di che colore sia. Tutto, pilastri, marciapiede, non lo so. Per far passeggiare la gente, in estate cosa vai a passeggiare? Ma questi sono fulminati forte. Ho visto, lì al caso hanno tolto tutti i parcheggi, casino. Come faremo? È alto il parcheggio, basta mettere la cosa della strada, come faccio io? Bisogna stare attenti anche sulla strada, eh. Ma ci sono quelle rientrate, quelli hanno dei piedi, ci sono quelli spiaggi dove puoi mettere la macchina, basta andare a presto e si trova il parcheggio. È quello, presto, a volte invece chi lavora, ma è che tardi, qua in tardi non c'è nulla. Ah, io già vado solo la domenica al mare. No, io vado anche la sera, spesso e volentieri la sera, visto che lavoro solo la mattina. Verso le 2, le 3 posso già chiedere al mare, dai. No, quindi sono qui in tempi, non arrivo più da, non mi piace più andare. Prima andavo volentieri, ci facevo gite in barca, eccetera, eccetera. Adesso non mi sta più prendendo così. Pescavo, mi piaceva pescare, dalla barca, eccetera. Mi prendevo il pedalò in affitto e me ne andavo là per pescare. Scusate, una pasta. Eia, qua sto già mangiando, hanno portato mamma la roba da mangiare, anche se hanno richiesta. Non lo so cosa stiano facendo ai pettini vari. Stanno cercando di affossare proprio i turisti, di mandar via i turisti, non c'è altra spiegazione. Non lo so, sono basito, guarda. Farli pagare i parcheggi, se proprio non vuoi guadagnare, no, tutto, marciapiedi e pilastri proprio per non entrare sul marciapiede in macchina. Cosa ho fatto io? In estate, 3 mesi, cosa vado lì a camminare sul marciapiede? Guarda, non ho parole. Sono rientrato? Eia. Capito, Claudio, hanno rovinato l'ennesimo lido, quello con i bar, uno di fronte all'altro, sul mare. Marciapiede, non si può accedere. Tutto marciapiede, tutto blocchetti di cemento, barriere per non passare. Ma i turisti li vuoi proprio cacciare via, deve essere. Non lo so. Cacciare via? Ma tu lo sai, l'ordinanza del demanio con provincia e comune di Socio. Tutti chioschi via, tutti, Gavino Caschetto, quello del secondo, quello del terzo, mi pare, del quarto, quello del sesto, Gavino Usai, tutti fuori, sai cosa vuol dire fuori, voglio vedere quest'estate tutto quel litorale, quando uno va al mare che ha bisogno di un caffè, una bibita fresca, dove cavolo va? A casa del sindaco di Sorso, perlomeno, o di Sassari, capito? Guarda, io gli avrei a secco, senza vaselina. Anche alla rotonda, allo stesso a destra della rotonda, tutto marciapiede, ma cosa fai a passeggiare lì in estate? Parcheggi ci vogliono, parcheggi a furia dura. Poi togli anche il bar, e così è la fine proprio della costa, capito? Ma guarda che quello del secondo, quello che ha fino al caschetto, io ci ho anche mangiato lì, fa ristorazione, fa tutto, capito? Tutto. Bellissimo, anche quello di Gavino Usai, c'è ristorante, c'è tu, fuori, non ci deve essere più niente, litorali fuori, l'unico che hai, che non è nella spiaggia, è il bar della torre e il bar nella strada, basta, nella spiaggia, all'interno della spiaggia, come sono stati fatti da anni, perché Gavino è una vita che c'era lì, infatti era, l'avevo intervistato, è uscito anche a videolina. Adesso bisogna vedere cosa ne salta fuori, capite? Chiusi, devono smantellare tutto, la spiaggia deve essere libera, non ci deve essere più né chioschi, niente, nulla. Nota proprio come aberrante, voglio una spiaggia libera, no? Ma per cosa? Perché chioschi non ce n'è più, parcheggi non ce n'è più, chi cazzo ci va in spiaggia? Me lo spieghi? Questo sarà un problema un po' di tutti, non so, però sai, il chiosco in spiaggia è sempre stato, anche perché adesso c'è la rivoluzione, perché questo comune di Sorso con il comune di Sassari è litorale, sì, non mi sembra Castelsardo, una cosa del genere. Ma ce ne sono tanti, ci sono i chioschi a Tentino, ci sono, quindi se l'ordinanza è solo per il comune di Sorso, allora succede la rivoluzione, o tutti o nessuno, capito? In tutte le spiagge, tu vai in qualsiasi spiaggia della Sardegna, ci sono i chioschetti che ti offrono sempre la bibita fresca, il caffettino, il gelato, eccetera, capito? Però adesso sarà un bel bordello, perché non so cosa succede. Ho trovato un paio di settimane fa Gavino Usai, perché Gianni già lo sa, il fratello di Walter Usai, il meccanico che ho io, in via Pascoli. E lui stava dicendo questa cosa. Disperazione, perché anni, ma tanti anni di sacrifici, aspettando proprio la stagione estiva, lui ha poi tantissimi problemi ogni anno con la sabbia che col maestrale sale tutto sulla battigia lì, quindi copre molto, quindi deve chiamare Ruspa a pulire prima dell'inizio dell'estate, grandi sacrifici per poi averne che cosa? Per dirti che l'ordinanza è che tu devi smaltellare tutto, devi chiudere. Aspetta Claudio, che non mi scende la roba, mamma mia. Mangia se stai mangiando, non rispondere alla radio, non ti preoccupare, mangia. Perché sono mangiato con fretta, con stizza per queste cose. E cioè tutto per marciapiedi. Niente chioschi. Chi ci va più. Questo sindaco di Sorcio lo vorrei conoscere, guarda, sputato in faccia. Deve essere bevuto troppa acqua della billetera. Ormai è asciutta, chi ce l'ha già, va, ce l'ha già bevuta tutta. Ma d'altronde c'è l'ultimo di Portamone, io c'era quando ero ragazzo, era una cosa vergognosa, no? Ti ricordo, c'erano tutte le case nella spiaggia, le casette prefabbricate, eccetera, che poi qualcuno aveva scavato anche sotto, avevano fatto piano sotto e piano sopra, cioè cose allucinanti. Si è riuscito a far sì tutta questa pulizia di abusivo, di abusivi, adesso, ma tu immaginati a Sandrino che gli hanno bruciato due volte, l'ha terminato per iniziare nuovamente la stagione quest'anno, deve rismontare tutto, cioè, allucinante, veramente vergognoso. Ho intervistato anche il sindaco di Porto Torres, il mitico Chiso Zingaro, dice che lui non ha mai consentito nelle poche spiagge Scoglio Lungo, Marinella, infatti effettivamente non ci sono più in spiaggia perché a Barai il chiosco è su nel boschetto, e quello che cos'è? Perché tu puoi fare un chiosco nel boschetto e prendere l'habitat naturale che madre natura ha creato, te lo bidi giù per fare il chiosco estivo, anche quello va bene. La legge mi sembra che non è uguale per tutti, succederà veramente una rivolta, perché sono pronti a Gavino, metto, sono pronto alla battaglia più grande che l'ho mai fatto in vita mia. Beh, ne va della sua professione, del suo stipendio, del suo guadagno. Guarda, no, non mi sta piacendo, a meno che questi babbei non stiano liberando tutto per farci poi lidi privati, parcheggi privati, capito? Tutto privato però, tutto privato. Capito? Così per pigliare una spiaggia, un ombrellone devi spendere 15 euro. Ma non ti nani, per stare mezza giornata, roba da matti proprio. Hai detto bene, sicuramente nasceranno dei lidi privati dove se vuoi stare lì devi pagare, capito? È così, però ti ripeto, veramente è una cosa, non lo so, sarà un casotto. Anche quello che c'è lì alla rotonda, non so se c'è ancora, se l'hanno tolto, la rotonda di Platone, quello che c'era lì, che cos'era? Quello in legno, praticamente lì, sono tanti anni che non ci vado, ma anche quello fuori, tutti, poi non so quanto deve essere spostato, anche il lido, le nuove strutture saranno spostate non so quanto dalla spiaggia, ma è già nella strada lido, ex lido di Sassari. Ci sono dei cambiamenti allucinanti, non so perché. Perché c'è un magna, chissà quanti appaltatori ci mangeranno sopra, assessori e magnacci vari, perché sono dei magnacci tutti, in tutti i paesi, in tutti i comuni. Proprio il caffè di traverso mi è andato quando ho visto uno spettacolo del genere. Cosa vuoi ti dica? Pazienza, non ci andiamo più al mare, ci andiamo in tram come fanno i poveri lì, eh? Col mezzo pubblico, ma quando mai? Non ti puoi portare niente, un asciugamano ti può portare, un mini ombrellone, cosa ti puoi portare andando in tram? Che schifo, guarda, che schifo, prima il quinto pittene era un bijou, il quinto. Andavamo lì, ci spostavamo qua a destra dove c'è una sporgenza e c'è l'acqua bassa fino agli scogli. L'acqua ti arriva sempre al torace, fino agli scogli. Tocchi sempre, ed era bello. Si pescavano anche polpetti là. Vabbè, non ho parole. Peggio per loro, poi non si lamentino e vengono a piangere. Non ci sono turisti quest'anno. Lo so, io sto controllando il telefono perché è già da un paio di giorni che non si sente il volume della soleria, un casino, vabbè, toccherà comprare l'unufo, va bene, cosa stavo dicendo? dicendo, sì sì, ma guarda che sarà un grosso problema, io quest'anno è la prima estate, sono appassionato, quindi non lo so, ma io non vado a Portamona, non vado a nessuna parte, io con mia moglie quando andiamo al mare scendiamo verso la tua Vicentina, oppure me ne vado ad Alghero, qualche volta siamo scesi a Porto Torres, ma solo di mattina per rientrare, per essere vicini, ma se lo stai tutto il giorno al mare vado ad Alghero o a Vicentina, quindi non poco mi interessa, però dico, sarà veramente una cosa da battaglia, perché sono pronti, perlomeno quelli che conosco io mi hanno già detto che sono pronti a battagliare forte, perché non so, uno aspetta la stagione estiva per guadagnare 2 lire, magari è solo quel lavoro lì, e invece si trova a non avere assolutamente niente. Ehi, ehi, vabbè, guarda, poco ci manca che levino i parcheggi andando alla rotonda, nel vialone alberato dritto che va alla rotonda, lì ci sono dei parcheggi, per ora, non si sa mai cosa li gira a questi qua, e quello perde il lavoro, mi perde il lavoro. Allora non gliene frega niente ai comuni, ai cosi, sì, ai comuni, ai sindaci, agli assessori, gliene frega niente, basta che si faccia come dice loro, e punto, non interessa il resto. Sì, sì, sì, guarda, è così, non lo so, spero che riescano a... Ma c'è un'ordinanza anche della... Il genio civile, hai capito, che naturalmente chi comanda le cose è anche il genio civile, con la provincia, eccetera. Quindi una parte il comune, qui interessato sarà il comune di Sorso, perché dalla torre di Platamona, dalla rotonda in poi è tutto il comune di Sorso, le cose partono, sono lì, quindi si arrangino, vedano loro. Mi dispiace per quelli che conosco, perché sono veramente delle bellissime strutture, buone e soprattutto molto, molto affidabili come strutture, hai capito? Invece... Questo è entrato, ciao Claudio. Ui, ciao Fra, questa voce? Sto usando quel vecchio svalvolare, brutta? No, è brutta, ma preferisco l'altra. Vabbè, la stagione avevo attaccato questo, per provarlo ed è rimasto questo, dai. No, vabbè. Ottimo per la truppa, l'antenna sta sempre andando bene, sì. Ditemelo voi, sempre uguale, sempre lì, Sì, sei oltre il 9, forse con l'altra radio arrivi ancora più forte. Con questa un po' più bassino, ma comunque abbastanza affidabile. Vai Marco per Franco. No. Magna. Sì, questo esce con 4 watt, l'altro ne dà, uno mi sembra che ne dà 20 e l'altro ne dà 15, mi sembra, 10-15. Già si vede la differenza fra qua, se 9, sto guardando bene con gli occhiati, se 9-5 con l'altro se 9-15. Quindi insomma c'è la differenza. Sì, vabbè, lo staccherò, dai, quando sei, anche questi giorni sono ben impegnato da una parte all'altra. Quindi no, ho poco tempo, la verità. Hai visto quel deragliamento del treno, da che cosa è successo? No, l'ho visto su Facebook, ma non so la causa. Hanno detto la causa? Ma è mai possibile, lì, io 3 morti ci sono, giovani pure, 3 morti, non so quanti feriti. Praticamente nello scambio, tu che sei pratico, mancava 20 centimetri di binario. No, ho visto io nella foto nel particolare, praticamente quello lì è un giunto saldato, una giunzione, anzi non saldato, è un giunto isolato, infatti tra le due rotaie c'è una lastra in resina, e praticamente le due rotaie non sono a contatto una con l'altra, perché ci sono i circuiti di binario, e sopra la suola, diciamo, sopra il fungo, ne manca un pezzo, ho visto, però non so se sia successo, cioè, causa del deragliamento, oppure se è stato causato dal deragliamento quella rottura. No, non mancava proprio, loro parlano di scambio, ma tu sei più perfetto nell'indicare le cose, perché è il tuo lavoro. Manca proprio quel pezzo, è lì che il primo vagone praticamente è uscito fuori, ha fatto un chilometro e più al di fuori del binario, e poi si è trascinato le carrozze, hanno diragliato. Ho visto che quel pezzo manca, proprio la parte dove rotola la ruota, la parte del principio di rotolamento, manca un pezzo da 20 cm. E lì c'è un punto a rischio perché ci sono i fori delle chiavarde, visto che ci sono delle placche metalliche con quattro bulloni, noi le chiamo chiavarde, in gergo, però sono dei bulloni isolati anche quelli. Dove, quando tu fai un foro indebolisci la rotaia e da lì si creano delle lesioni, delle spaccature, e il ferro si lesiona come una crepa nel muro. E sicuramente è saltato il pezzo superiore, è lesionato del tutto e quel pezzo è saltato in aria. Sì, ma ho fatto mi segni che, ma la manutenzione dov'è di quella linea? Cioè, come si fa a far passare un treno sapendo che nessuno fa questi controlli? Infatti quelle giunzioni lì non si usano più, ormai fanno i giunti incollati, si chiamano, sono fatti diversamente, sono più resistenti. È che l'inclinatura, cioè la crepa, è all'interno della ganaccia, tu non la vedi, capito? A meno che non smonti le ganacce, ogni tanto controlli, dovresti fare così. Ma difficilmente smontano una giunzione per vedere se c'è qualche lesione. Là. Ma lì prendono colpi forti, prendono colpi forti, ma forte. Vedrai il casino che succede lì, vedrai, perché è già stato contattato, c'erano già stamattina i... hanno subito verificato e sono accorti subito di questa cosa. Lì il responsabile al controllo di queste cose, chi il preposto, chi deve controllare, chi deve mandare a controllare, prende colpi forti. E lì adesso uno cerca di scaricare sull'altro, poi alla fine ci rimette sempre l'ultimo, magari sempre che sia stato comandato a fare dei controlli. Ripeto, i controlli si possono fare, non è che non si possono fare, però purtroppo cade, gli incidenti capitano. Una volta da noi aveva tranciato quelle chiavate tranciate, poi non era intera, però si è allontanata di quasi 10 cm una dall'altra, non mi ricordo se fosse 7 cm, però praticamente ci è passato sopra e non è successo nulla, non ha deragliato, però è successo anche da noi. Può essere anche, non so, mancanza di ghiaia sotto le traverse, perché se tu non fai la rincalzatura, cosa succede? La giunta se ne scende a furia di martellare, si abbicchiera, diventa diciamo un fosso, come un fosso diciamo. E lì vuole essere ricalzata, se no fa un sacco di vibrazioni quando passa il treno. Mamma mia, sei stato chiarissimo. Sì, ho visto le foto e ho la paura, ma come si fa? La paura, tre morti ci sono, non si sa, ce ne sono in ospedale messi male, spero che non aumenti, ma ce ne sono tre morti sul corpo, tantissimi feriti. Ui. Hai finito di masticare Marcolino Condor? No, è roba lunga, dai. Purtroppo per questi che ci lavorano, non alle ferrovie lì, a questi chioschi, cosa possono fare? Più che fare manifestazioni, casino, non possono fare altro. Poi come sempre mandano la polizia, le manganellano, le addessano e tutto finisce lì, capito? Cosa puoi fare? A meno che non ci andiamo i 100.000 a protestare, allora voglio vedere. Brecco. Registrato il brecco. E Marco, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, ci sarà una manifestazione. Avanti, Brecco. Sì, positivo, là. Ciao Marco, Claudio, poi non lo so chi c'è ancora, là, lo so voi. E siamo io, Marco e Franco di Monte Basso. Fra, lo senti a Massimiliano? Certo, lo sento, ciao Massimiliano. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato, là. Avanti, Marco. Ciao Massimiliano, ben entrato. No, io prima stavo discutendo di questo schifo che stanno facendo ai lidi Sassari, dove ci sono quei due bar sul mare, no? Tra praticamente il centro commerciale e un villaggio che non so se sia il rosso o il grigio. Anche lì marciapiede da finire, marciapiede, blocchetti per non far passare le macchine. Stanno chiudendo tutto, stanno facendo tutte le discese lì dopo pedonali, quello lì, il quarto, il quinto, poi non ne parliamo. Non lo so cosa c'ha il sindaco in testa, se... Boh. La gente gente vuole parcheggi nel sacco, non vuole andare a passeggiare sui marciapiedi, vuole parcheggi. Se poi mandano via anche questi dei lidi, così come hanno detto, i turisti se ne vanno, non c'è un bar a pigliarsi un tramezzino, un caffè, poi parcheggio, ne parliamo. Guarda, te l'ho detto, io ho sentito interessato e mi ha detto che è veramente una vergogna, non lo so. Mo si vedrà. Ok, avanti Massimiliano, riprendi. Sì, va, riprendo, faccio riprendere subito a Franco, va, avanti Franco, so se lo ascolto. Va. Sì, no, perché non ti vuoi ascoltare? Dai, arrivi bene qua, sei. Mi sembra Santiago 9 se non sbaglio. La radio è un po' così, un po' cupa, però ti ascolto bene. Io sto usando un valvolare, mi ascolti bene tu? Sì, sì, io ti ascolto perfettamente bene. E va, perché la radio è un po' così, va bene, tu va. Un po' la radio, il segnale è buono comunque, dai. Sì, la radio non serve. Poi vabbè, per fare due occhiate, momentaneamente abbiamo questo, affinché poi non la mettiamo sotto le ruote della macchina, poi già non qualche domanda. No, va bene, comprensibilissima. E cosa, Claudio? Gianni è andato via, doppio room? Non so, era qua, forse si è spostato al telefono, non so. Ok. Va bene, va bene. Ehi, Massimiliano, accontentati. Radio Vincia è così arriva. Anche quello ha fatto il suo corso. Va bene, va bene. Avanti Marco, riprendi. Marco è andato a bere, io stavo affogando. Riprendi tu, Massimiliano. Buonasera. Sì, aspetta, se sono apportato vuoi entrare qualcuno. Avanti, chi è? Buonasera. Buonasera. Natalino Alfa 1. Oggi non si è amplificato, ma non ti stavo riconoscendo. Ma lei chi tu? Natalino, Marco io l'ho riconosciuto. Natalino, riprendi. Ma vogliamo che non è stato. Sembra un bravo ragazzo. Vabbè, adesso me ne vado, va. Ma lo vogliamo buttiamo un beso a Natalino. Ciao, buonasera per la tua parte. Ciao, l'omologato. Ma lo vuoi questo? Lo vendi qua lì, bello, grigio. E cos'è? Però deve venire le scopposte qua, se mi trovo a quello mi arrestano. Vabbè, cosa avete? Io sono un buon vostro armato, vanno si manda per le ghisso, no? Infatti è ghisso che devo fare. Assaimi voi? Già non lo voglio molto. Già ci facciamo solo d'accordo. Capito? È uno di quelli grigi che tu porti molto bene. Già lo so. È che mi è successo danno, cioè, dovevo cambiare i fari della macchina e non me li ho potuti comprare perché mia moglie aveva perso le chiavi della serratura e ho dovuto cambiare la serratura del portoncino blindato, un cazzotto. Un fischio sentivo sotto. Cosa? Sentivo un fischio nella modulazione di Natalino, come mai? Perché c'è qualche pirla che sta mettendo la portante, anche io l'ho sentito. No, ce l'hai tu proprio, ce l'hai tu nella. Te lo porti appresso proprio. No, ce l'hai anche tu perché sta mettendo portante questo coglione. Vabbè, rimanga in ascolto, se no disturbo anche a voi. No, io non ne sento portante né da né su Natalino né su Franco. No, io ho sentita, comunque ha ragione, perché l'intervistenza a volte si sentiva e a volte no. Natalino, ma c'è l'antenna torta? E l'ultimo pezzo è un po' stortino e abbiamo toccato il muro quando la stavamo tirando su. Poi io passando lì al ponte con lo sguardo e non me la ricordavo così, ho peggiorato per il vento. No, già è così. Offa! Guarda se li ascolti meglio così. Così sei più amplificato, però per me dovete abbassare. E cosa devo abbassare? Magari mi devo allontanare un pochino dal microfono. Là. Ecco, ok, così va bene. Ok, no. Marco, per quanto riguarda quella cosa che ti ho detto che stavi dicendo cazzate ieri, non la prenderà male, te le stavo dicendo perché lo sai cosa la gente usa, tutto lì, non per te. No, ci mancherebbe, no. No, io, vabbè, mi riferivo che c'erano questi servizi che o si erano lamentati o ci potevano lamentare in teoria, questi che portano il sangue, non so, all'ospedale, cantieri, cose, quello me l'ha detto Gianfranco, che risentono, ma voglio vedere chi davvero l'ha detto, o potrebbero gentire dei watt elevati che ci siamo noi, mi ci metto anch'io naturalmente. Così avevo sentito. Vabbè, no, male no, ci mancherebbe. Insomma, ma finché non bussano la porta non credo che ci sia problema. Certo, se bussano... No, no, volevo chiarire questa cosa perché ieri l'ho detto un po' così, no? Poi non potevo riprendere, ho detto, ah, Marco magari... Cioè, non voglio che fraintenda, ecco, tutto lì. No, cazzate, perché già lo sai cosa tutto si usa e cosa tutto si ha, tutto lì. Non voglio entrare nei particolari, tutto qua, dai. Avanti, Natali, riprendi. A te sto mandando una fotografia a Marco, così si mette a ridere. Va bene, vai, Claudio Sparviero. Ma Sparviero, però... Ricordati il filtro natalino, così non moduli più del tutto. Mi sei bastardo. Non ti preoccupare. Lasciami fare queste cose che devo fare, poi ve lo facciamo arrivare. Guarda, va, per il momento non te ne fai nulla, ma va. Lui, non facciamo fare, non lo devo rimettere, perché se vengono quelli... No, ma ci vediamo che ha migliorato dal giorno alla notte, proprio da 50 a 100. Ma cambia lo telefono, ma cambia il microfono? Non so, secondo me ha cambiato anche il radio. Da 50 a 100 proprio di compressibilità di modulazione. Quella là era 50 e quella che sto usando adesso è 100. Allucinante. Io non c'è niente da fare, con i baracchini esco bene, già lo sai. Adesso perché devo cambiare cosa, sennò perché è attaccato il serpente. Ah, che bello. Io beh, questo non ho niente da invidiare al serpente. Ultima modulazione, 5, bella amplificata, bella chiara, non è cupa, limpida, tonalità perfetta, l'altra non so. Non ho parole proprio. Sì, vabbè, dai, se fa un prezzo buono la diamo a Natalino. Intendi, no? E cosa che non stavo seguendo? Ho detto, se fai un prezzo buono te la prendi tu, quella là. Ma non ho capito cosa, è quello. Adesso, quella grigia che stavamo parlando poco fa. Ah, cappa, no, che non ce l'ha fatto. Neanche per il mese prossimo, il mese pigliare, guarda di la macchina. Perché ce li ho troppo rovinati e non fa anche gli fidandoli. Quasi la luce diventa macchiari. Ascolta, che modello c'hai tu dei fari? Io ce li ho due fari della puttana. Ma buoni sono. E allora, mucca luglio. E guarda la tua, quella ce l'avevi tu Massimiliano, quella celeste, quel modello lì c'ha lui, però turbo diesel anziché a benzina. La mia è turbo diesel infatti, la seconda serie del 2001. E questa era del 2001 lo stesso, era la 1002, quella che c'era tre porte là, quella che c'aveva i fari un po' a punta. E quella che c'ha i fari stretti stretti. L'altra che è uscita ce li ha più grandi. Uguali sono, ti ho detto, stessa macchina, una è 1009 GTD e quella tua era 1200 benzina, sono uguali, perfetto. Sì, se sono quelli stessi, infatti, perché dopo quell'altra che è uscita, dopo, aveva i fari più grandi, quelli stretti, cioè. Ho detto, Natalia, se tu devi cambiare le plastiche, quelle esterne, anche le mie sono... stretti, quei fari stretti. Devi cambiare solo le plastiche esterne, le mie sono le nuove. Non si possono cambiare le plastiche, no. Ti ho detto a te. Non si possono cambiare, io ho anche le lenti degli anabaglianti che sono facizzate e quindi praticamente fa poca luce. C'è un break, fatelo entrare. E chi è? Terranova? Ho sentito qualcuno aggiungere un qualcosa alle lenti, non so, un commento. Sì, l'ho sentito anch'io. E avanti allora. Ha ripetuto le parole, non so di chi, forse di Massimiliano. Vabbè, quindi giù, Natali, giù, hai le... proprio le parabole riflettenti arrugginite, opache, no, non riflette, è proprio di cambiare il faro. Ehi, me l'ha detto l'elettrato, sono andato all'elettrato, è inutile che le luci, perché le luci non è fa che c'è le lenti opacizzate, c'è una lente prima della lampadina, non è la parabola, è una lente che c'è nella abbagliante, la parabola c'è solo nella abbagliante, perché sono separate, capito? Il faro mio è spesso in luce. Ma la tua parabola com'è, buona? No, non serve neanche quella, bisogna cambiare i fari. Cioè la lente deve una abbagliante, quando io sento lì una abbagliante, quasi come se riduci di dai, poca luce. Quindi la notte non vedo un cavolo, io la notte non posso uscire. Bisogna cambiare la macchina. E ormai sono corti dalla temperatura delle lampade. Infatti, avevo messo le lampadine a 100 watt e su di cima mi giusto su. Ehi, occhio che ti si può incollare le dei luci, se non metti il relè ti scalda le luci e ti piglia pure la macchina. Natali, se tu al posto di 55 watt o 60 ne metti 100, sciogli pure l'impianto elettrico. Oh, sì. Tanto di me, che le ho le lampadine originali. Adesso vediamo se sono buoni quelli, le plastiche non me ne faccio nulla perché no, non si possono togliere da quei fari. Che lampadina è monta? H3, H4, H7? H7. H7 monta. Non lo sa, mi. Non lo vuole dire Antelino perché non lo sa. Ma no, c'erano H4 tipiche. Ti ho detto che sono H7, non lo sai tu. Fino avanti capurumotore che non sa c'è di ributa a capurumotore. Pronto, pronto. Sì, dammi quello lì, Io già sono pronto. Ciao, ma sono toccato, però sono venuto a scappare io che mi avevano chiamato il giorno, no, ho fatto un soltanto un commento che mi è sembrato opportuno farlo, che pure si sono tradotto le mie, ma le plastiche che fare non esistono, prima di tutto mi riescono a comprare, ma non so più tutti, perché sono saldate con una cosa particolare dalla valore eccetera, che è con le posizioni di causa. E quindi questo punto di più si può soltanto ritirare, quindi vedi che il carrozziere ha un prodotto che è una specie di fatto presenta, chiamiamola così, io sono il giusto, ma adesso non lo voglio dire, che tu vai da lui, vai e se le luci, la vediamo con il video prima, a meno che non siano proprio opacizzate dal sole e bruciate. Senti pure ciò opacizzate della lampagliante, Pitù, funzioni, lampati, ecco cos'è. Quasi la luce comincia una chiarica. Sono andato all'elettrato, io sto parlando con cognizione di causa. Se no, io me li ho fatti riciclare 5.000 volte quei fari. Vedete, sempre un sacco di soldi, però cazzo dura la tabacca e sta succedendo. Avanti di più le fette bogate di buco. Poi devo cambiare anche perché uno tocca da qualche parte, che mi diceva che alcuni in posteggio ma già avuto un'imbucurata e ha fatto sotto qualche cosa. E quindi un faro non registra. Poi per soldi le devo togliere, per forza il faro. Non c'è nulla a fare. Così guardiamo dove tocca il faro e metto tutto a posto. Natalino, mandami qualcosa su WhatsApp che vedo quale sei tu, che ne ho un paio di Natalino, non so quale sei tu. Anche un ciao, una sillaba, giusto per vedere che sei tu che ti tiro la foto. Ciao Vittorio Volpe, sì, avevo sentito tra le modulazioni un fugace, così un intervento e bene, adesso ti ascolto bene. Purtroppo, caspita, mettere fari da 100 watt, guarda che sono abbondantemente fuori norma, possono solo riscaldare l'impianto elettrico e tutto, non va bene. Ok, Claudio, ci sei, avanti? Sì, sì, ci sono, vi stavo ascoltando, ciao a Vittorio, più se lo dice Vittorio è così, perché è così, insomma. Per tanti anni lo sappiamo cosa ha fatto e quindi è così, no, ma che secondo me non si possono cambiare, possono lucidare se non sono proprio distrutti dal sole, capito? però Massimiliano, quelli che hai tu completi, se ce li hai completi, sono uguali a quelli che c'ha Natalino. La macchina è uguale, una è 1900 GTD e l'altra è 1200 a benzina, il modello è uguale, sono tutte e due del 2001, sono uguali, perfetti, capito? Quindi è così, va bene, ciao Vittorio, cambio per te, avanti. Avanti, fra. Ho detto, quando è entrato oggi, sembrava un bravo ragazzo, cioè, la modulazione è pulita, pulita. E perché? Cattivo so. Te le immagini questo Franco che mi sta infamando? No, già ho detto che sei bravo. Puente sei anche guarito, quindi meno male. Ascolta, la serratura cosa hai combinato? Tu mi hai detto? Ah, la serratura blindata del portoncino, ho dovuto smontare tutto il portoncino, sono andato col blocchetto lì, mi dà giù il blocchetto ed era sinistro. Torno andato in domani, manco male che mi ha dimostrato tutta la serratura, ma finirne più bene. E non ne aveva destri, ho dovuto comprare tutta la serratura. E adesso ne ho due. Il cilindro si poteva cambiare, oppure la mappatura, quelle piastre, mentre tutte una sull'altra, non so che tipo c'hai tu. La montura c'ho, ti sto dicendo, già si può cambiare, sono andato col blocchetto, però me l'ha dato sbagliato, ce li aveva solo sinistri, destri non ne aveva di blocchi, e ha dovuto comprare tutta la serratura completa. Il cilindro tu intendi, per il blocchetto cosa intendi, il cilindro? Eia, al suo mano. La mia non è bottuta, la mia non è bottuta, ci verrà c'è pure uno di chi. Marco, vabbè, sta avendo la fame anche a me adesso, sto già sbadigliando. E anche io fra un po' mangio che devo andare a lavorare. Non ti invidio allora. No, io vi lascio, vado a portare il cane, se ci siete a dopo, non ci vediamo, se non ci siete più ti saluto, buon lavoro, buon tutto. No, vado a portare il cane, se ci siete a dopo, altrimenti buon proseguo di serata a tutti. Ciao Fra, anche da parte mia, da parte nostra, un abbraccio a tutti, non ci sentiamo, dai. Ciao Claudio, ti è arrivato a Manciabilià? Oh, guarda, ciao Clara, a dopo, se coincide. Sì, mi è arrivato. Secondo che lo memorizzo e così poi le mando le foto, va? Ui, che tribolazione. Non mi ricordavo come mandare un contatto a un'altra persona, non so nemmeno se si possa fare, boh. Sì, che si può fare, devi andare in rubrica, poi sul menu sulla destra, clicchi, invia contatto, condividi contatto, mi sembra che sia, e lo condividi come vuoi, va? Capito Marco? Sto guardando per esempio Natalino NOPQRS, no aspetta, ecco ho il numero, cosa devo fare? Tenere premuto? No, vediamo, aspetta, sì, WhatsApp, sì, condividi contatto. E beh, cosa, chi lo avrei mandato? Mamma mia, lasciamo perdere. Tanta lì, guarda se sono questi i fari. E c'è anche Vittorio, mi manco lì. Ehi, volevo sentire l'esito dei fari. Ci sta di sì, ha detto. Vogliono puliti, là, c'è un po' di polvere, ma sono nuovi, Vittorio. Dai, signori, io vi saluto che ceno, che dopo devo andare a lavorare, là. Stiamo lavorando per voi, mi fra, capito? Stiamo facendo gli allargamenti della ferrovia. E dove? Ehi, ci abbiamo il tratto da Ploaghe fino a Olbia. Vabbè, non è roba mia, io sono a Sassa di Alghero, a Sassa di Torso, a Sassa di Palau, da Tempio Palau. Non so se passa lì Tempio Palau, boh, non te lo so dire, comunque l'ultima corsa dove siamo noi passa alle 10 e poi possiamo iniziare. No, no, è un'altra linea, quella lì sono, sì, sul RSI, da. Ehi, ehi, stiamo allargando lì tutto quanto, per quello stiamo lavorando di notte. Va bene, dai, io, signori, vi saluto che vado a cenare. Natali, se c'è qualcosa, mandami qualcosa su WhatsApp, dai. Vi saluto a tutti cordialmente, buona serata e buona continuazione del corso. Ciao. Capo, alla prossima e buon lavoro per te, dai. Avanti, Marco. Ciao, Maci. Mille influenze, amici. Ciao, Maximiliano. Ciao, buon lavoro. Mille avviari, amici. Mamma mia. Guarda, speriamo che non mi venga. Siamo al picco, mi pare ho superato il picco. Ovvio, vabbè. O viene o non viene, c'è poco da fare. 50-50 sono le probabilità. Ah, così è. Speriamo di essere nella 50 positiva, allora. Beh, o negativa, dipende dai punti di vista. Volevo chiedere a Vittorio che antenna sta usando. io sono due e mi mando con un nome mi danno un breve Non è che era nato Leopardi chi è? Non mi ricordo adesso, boh. Sì, capo, comunque è Leopardi, ho guardato con il cellulare adesso è Leopardi, ricordavo bene, dai, un attimo, era canato, sono delle ricordi d'infanzia. Sì, è un piccolo paese nelle maschere. Marco, sei rientrato? Lo stanno messaggiando, boh, nata lì, non c'è più nessuno, ti hanno abbandonato. E io sono nel Monte Basso proprio, è che l'antenna è appoggiata, diciamo, sul ferro per tendere, quindi sono al primo piano, dai. Però c'è tutto il palazzo poi sopra, quindi sono coperto dai palazzi attorno. No, prima con una boomerang non mi sentiva nessuno, adesso con questa è un pochettino più alta, cioè abbastanza più alta, e specialmente in trasmissione. In ricezione è un pochettino più sorda perché è un po' coperta un lato. Scendendo da Monte Oro sulla sinistra si vede una direttiva. No, io sono sulla terminale. Sì, ma mi hai capito cosa sto dicendo? Ti ho spiegato anzi. No. Sulla sinistra, come inizia la discesa di Monte Oro, verso Sassa, diciamo. Sulla sinistra si vede una direttiva enorme, che è molto bassa, te la vedi proprio sulla sinistra a livello della strada, vai, è su un tubo. Sul ciglio della strada, Salendo ti viene a destra, scendendo la vedi sulla sinistra, ma è molto bassa, non è in alto come antenna. È a livello di strada praticamente, perché lì la campagna degrada verso il basso e quindi l'antenna è lì sotto. Beh. Avanti. Okay. Ciao Franco. Ciao Vittorio, buonasera. Sì, ho sentito qualcosina riguardo, intanto ho visto, ti volevo chiedere, io ho un organo che poi fa anche da piano, perché ha due tastiere, uno è il piano e uno è l'organo, però non funziona, funziona in parte. Tu lo sai chi è che ripara qui a Sassari? Sì, è un falfisa, quella, guarda che è alto, tu immaginati un comò di una camera da letto, è di quell'altezza lì, ci sono due tastiere, una è l'organo, l'altra è il piano, poi ci sono tutti gli strumenti anche, cioè ci sono vari tasti, schiacci un tasto e ti dà un tipo di musica, un altro tasto ti dà un altro tipo di musica, capito? Non so se mi sono spiegato. Sì, ma mi devi dire però che cosa che non funziona per capire se sono i tasti o se sono le posizioni, perché se no se è proprio tanto, io non so che cosa funziona. Allora, quando si accende si dovrebbe accendere tutta una strumentazione davanti, ogni tasto corrisponde ad esempio al basso, alla chitarra, alla batteria e tutte queste cose, c'è una serie quanto è lungo l'organo e tutto pieno di tasti, dunque ogni tasto ha un suo strumento in pratica, no? E alcuni strumenti, cioè alcuni tasti non si accendono, di conseguenza non funzionano. Dentro è tutto a schede, tu immaginati, per ogni cosa c'è una scheda, non lo so se si è ossidato qualcosa, probabilmente vorranno disossidati, non lo so. Guarda, non so cosa fare, non so se hai un'esperienza di aprire. Ecco, ti chiedo, invasiva, avevo intenzione di chiudere una scheda per volta e mettere quel disossidante per l'elettronica per vedere se ripristinavano, perché evidentemente c'è qualche scheda che non fa ben contatto e dunque non si accendono i vari strumenti. Ecco, tieni presente che c'è anche il pedale per il massimo, c'è anche il pedale, sì, due mi sembra, sì, due pedali, no, un pedale grande, poi tanti pedali piccoli, 5-6 pedali uno di fianco all'altro. Sì, infatti. Poi c'è un altro parlante grande che di diametro saranno non meno di 35 centimetri, l'altro parlante che c'è. Va bene, facciamo venire avanti a Franco, scusa Franco se abbiamo fatto un ping pong tra me e Vittorio. Avanti Franco. No, tranquillo, intanto ti saluto, ciao Giulio, ben entrato. No, queste cose poi a me mi appassionano, non ti preoccupare, riprendi. Ok, sì. E poi, tornando al discorso del fare, il problema che ha Natalino, io ho uno, ne ho parlo di una macchina che leggermente ho pazzesato, sia il sole, perché la mia macchina quando è sotto il mio ballatoio, diciamo, da una parte prende il sole, da una parte no. Però ho parlato col carrozziere, con Roberto, e mi ha detto portamela, io te la lucido, e poi ci va il trasparente sopra, perché se no non va bene, dice, e ritorno all'uovo, così mi ha detto e così ti sto dicendo, non fa. Sì, però Natalino non ha solo il problema del vetro, la plastica anteriore, lui ha un problema anche di lente, cioè la lente che c'è all'interno, che è amplificata, luce dell'anno abbagliante, che è opacizzato, e quindi di conseguenza non fa luce, anche dovendo lucidare il vetro davanti non risolve nulla, deve cambiare tutto l'interno, capito? Ok, praticamente per fare un parallelo con gli occhi, il cristallino è opacizzato, ho capito. Va bene. Beh certo, quando è così allora è chiaro che ci vogliono fare i nuovi, ci mancherebbe. Va bene, ne prendimi tu. La plastica è bruciata proprio da sola, ma non è bruciata soltanto all'interno, ma è bruciata anche all'interno, quindi il prisma e la luce è passato, è passeggiato, non fa, come il decisare di una volta che la parabola, le abitudini che si hanno, noi vorremmo sempre avere in più le cose non danno in più, le cose sono state studiate per evoluzione. Se tu hai una pedina di 55 watt, 55 watt sono 55, se la metti da 100, il calore che procura la lampadina da 100 watt è maggiore, quasi il doppio, e quindi il calore opacizza il prisma che sarebbe la cromatura che c'ha la parabola, quindi quella indebolisce il calore, e invece di mettere le lampadine più potenti, e sono meno che vero, allora cambia il fare, e non che male. Ok Vittorio, sì, beh certo, e tu pure hai lavorato in quel settore per tantissimi anni, per cui meglio di te chi lo può sapere. Non credo che sono in tanti, almeno le persone che sono in frequenza. Sì, no, il mio è la plastica, però non è che sia così eccessivamente opacizzata, è leggermente bruciata praticamente dal sole e quando va detto così, Roberto dice, se non è eccessivamente bruciata si può lucidare, si può, va tutta verificata, lucidata, e poi però per dargli lo splendore bisogna dargli il trasparente sopra. Infatti un po' uno di questi giorni mi ha rapporto, adesso sono impegnato in questo periodo, però appena che finisco quello che sto facendo vado da Roberto e me la faccio fare, perché glielo ho già detto già da un paio di mesi fa, e lui mi ha detto portamela che te la faccio, e invece non ci sono mai andato perché sono impegnato. Avanti Fra. Sì, no, ti ho detto una cosa giusta, prima va levigata bene con la casa abrasiva, con quella un po' più grossa, e fino ad arrivare a quella sottilissima, non mi ricordo se è da 2000, 3000, 4000, forse, non so se via. Poi li lucidi e poi alla fine dai un buon trasparente, perché quello che conta è che sia un buon trasparente, che non sfogli niente roba economica, lì bisogna andare su un prodotto valido, dai. Sì, infatti me l'ha detto, io gli ho proposto la situazione e lui mi ha detto sì, dice, cioè non è proprio bruciato, proprio si può recuperare, se poi è bruciato è chiaro che bisogna cambiare il farlo. Però così facendo, dice, non è che vuole solo levigato, come fanno qualcuno che fa da sé magari, no? Però non fa un lavoro bello. Dice, ci vuole poi il trasparente, e così mi ha detto, fateglielo vedere, ma poi non si spoglia. No, non si spoglia assolutamente. E dunque, se me l'ha detto Roberto, significa che è così. Lui è un bravo carrozziere, per cui lo sa benissimo. Va bene, avanti Vito. Con un tubetto di fare un altro, che devo fare un po' di tempo di che sono quelle pochissime, non le devo mettere a pintare, ma messo pochissima e mi ha fatto leggere molto col cotone. Ma così si fa, così è, ci sono altri prodotti che possono componere questo. Sì, ormai vedono questi kit proprio per riparare i fari. Devi solo attenersi a quello che c'è scritto e basta, dai. Comunque, vediamo se vuole entrare l'amico del dentifricio, dai, avanti. Negativo, dai, riprende giù. È entrato? Avanti, chi è? Non se la sente. Beh, quello che ti dica, sì, magari vendono anche questi prodotti, anche nelle ricette commerciali, tipo Sham, eccetera, però non è un lavoro completo. Come mi ha spiegato Roberto, ci vuole sempre poi la mano del professionista per fare queste cose, perché ripeto, ci vuole il trasparente perché duri poi nel tempo, perché magari passando quel prodotto un piccolo miglioramento ci può anche essere, però quanto tempo dura poi il lavoro fatto così? E poi siamo sempre a capo, invece con trasparente dice dura un bel po' di tempo, tantissimo diciamo, ecco. Vai Vito. Ho capito tu, no, ma il problema non è quello, il problema è che il trasparente non è altro che una finestra per tenerla sotto chiusa, ma se fa una grossa pioggia durata, la pellicola se ne va, una cassata in come finestra. Voi, secondo che uso che shampoo usi per avere una macchina, quella pellicola per dormire è una cassata. Niente, una volta che viene usato questo prodotto che sto dicendo, questo è così, rimane trasparente e il faro è pulito. Quindi questo è il punto del punto. Sì, infatti mi avevo parlato anche la volta che gli avevo proposto questo quesito a Roberto, ma lo parlo, dice i prodotti quando si va dal lavaggio, no, ci sono certi shampoo eccetera, che loro dice non si lava mai la macchina con certi prodotti perché rovina la verniciatura a lungo andare, si lava solo esclusivamente con l'acqua e boom, senza mettere tante altre cose. Questo è quello che mi ha detto Roberto, e se l'ha detto lui io ci credo. Vai tra. Una volta abbiamo fretta, non abbiamo anche la voglia, quindi 5 euro, 6 euro, 7 euro la mettiamo dentro il tunnel, quello che ne esce. Così è giù. Sì, e beh certo, ma il primo sono io, però non lo faccio passare sotto il tunnel, perché lì ti piega i cosi, gli specchietti eccetera. No, io vado sotto il tunnel, la tettoia però lo faccio io. C'è l'idrante lì che non faccio altro che mettere il gettone e la lavo come voglio io, per cui non è questo il problema. E devo dire che la faccio lucida, è proprio bella, pulita, quando sono in forma ci piego un'oretta tra farla bene fuori e dentro, soprattutto tutta aspirata, lavaggio anche dei tappeti, insomma diciamo che quando sono in forma la faccio veramente bene, che si può rimettere in vetrina, per tanto più che la macchina mia è nuova, e nonostante che ho 8 anni e mezzo, però ha appena 35.000 km, anzi non ci sono nemmeno 35.000 km, per cui ci puoi immaginare, non ha camminato niente. È in rodaggio ancora. Che macchina hai, si può dire? Certo, la C3. Una titola, sì, no, già vanno bene. Sì, vanno benissimo, io ripeto, 8 anni e mezzo e sono sempre le gomme originali. L'unica cosa che ho fatto è che ho sostituito la batteria, ma l'ho sostituita 3-4 mesi fa, per cui anche per quello sono soddisfatto, perché non era una batteria che è durata poco, è durata oltre 8 anni. Vai Vito. Il problema è, allora, anche le batterie, anche l'esperienza di tutto questo, le batterie, quando uno perché si continua così a perché ad esempio se in tua casa va bene, ma non so devo andare a molto bianco, mi viene la mente, poi se non devo andare questo è il peso, ma questa muscolatura che si fa, che si fa, la muscolatura è una cosa, devi fare due percorsi, vabbè. Però se tu ti mano, se tu fai 4-5 metri e mezzo in un'ora, e non rivedi quella carica, devi andare con il ma come il corso. Però per la batteria non si funziona, non si deve niente. E lui ti rimane la gamma, perché l'hai comprato, cioè questa batteria non funziona, no, lei deve fare tutto, tutto deve essere morto. Purtroppo è così. Mi capisco che devo dire, se illuminano con tutto questo messo in moto frequenti, ma poi non ha la possibilità di fare un percorso lungo per ricevere la carica, proprio come se illuminano la batteria. Non so se ricevere 8 anni, è sbagliato. Oggi le macchine moderne che hanno lo start e il stop, che quando si fermi al semaforo si spegne anche il motore, quelle dovranno ancora meno le batterie. Sì, però c'è un discorso da fare anche. Quelle batterie di quelle vetture, perché io ho pensato, cioè, quando c'è lo semaforo, però se la batteria non è una batteria da 40 ma è una batteria da 150 euro. Quindi più ancora più ha la possibilità di fare il nostro più volte, però il problema è che se senza la presenza di mettere in moto tante volte, quello che lo fa conquistare, quindi anche quello che si fa per più, si sente di lui il discorso. Dovete avere un alternatore adeguato per caricarla in fretta, dai, un bel alternatore ci vuole. Vittorio, un discorso, io avevo un amico che ormai è deceduto già da qualche anno, che faceva delle trauto di professione ed era anche abbastanza bravo, era abbastanza noto qui a Sassari, e mi diceva, allora io parlo di quando avevo la macchina, che allora c'era la dinamo, non l'alternatore o Vittorio. Mi diceva, quando tu metti in moto la macchina, per recuperare quella carica che consuma, per recuperare l'appieno, devi percorrere 13 km. Allora hai recuperato quella carica che hai consumato nel momento che metti in moto. E tu hai fatto un ragionamento giusto. Se dice, se la faccio funzionare 4-5 volte, fai il conto, 5 volte per 13, e ecco che hai detto bene, il percorso da Sassari a Macomer. Oh, qui tu, riprendi. Sì, ho capito benissimo, sì, in effetti, con le spalle. scusate, l'altro sistema. Corrisponde al discorso appunto che mi aveva fatto quell'amico elettrauto appunto. Sì, ma è così, capisco benissimo. No, io la batteria sinceramente l'ho comprata adesso, l'ho messa lì, l'ho comprata da Auchan, l'ho pagata 49,90 da 60 ampere. Devo dire, ce l'ho già 4 mesi in questo modo e sta andando molto bene. E poi se guasta, pazienza, vuol dire rimetteremo una nuova, vedi tu. E la marca non lo so, mi sembra che sia una marca un po' bastarda, però mi ricordo che un'altra volta nell'altra macchina che avevo prima la batteria a casa strada mi ha durato, tu non ci crederai, 10 anni. Perché? Perché l'avevo poi, dopo averla consumata nella macchina, l'avevo passata al motocarro che avevo prima quando lavoravo, no? E lì ha fatto tantissimi anni. Ho rottamato il motocarro, l'ho portato al ferro vecchio, ho tolto la batteria, allora lì si è guastata. Però per 10 anni, veramente, credimi, perché è così, ho visto. Sono stato fortunato, quello che vuoi. Ed era comprata questa batteria sempre a Città Mercato, allora si chiamava Città Mercato. Vai, di tu. Capo, no, chiedo scusa, volevo salutarvi perché è arrivata l'ora dei pavesini, anche se diciamo l'argomento mi stava appassionando, ok? Saluto, una buona serata a tutti e due, entrambi. Riprendi Giulio. Ok, fa. Ciao, ci sentiamo, buona cena, dai, e anch'io fra 5 minuti dovrò scendere anch'io per la cena, si è già fatta l'ora. Salutoni ancora, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo, ciao fra. Comunque l'antenna sta andando sempre bene, il segnale è nuovo, per cui va ottimamente bene, considera che la mia è bassa, la tua è bassa, perciò va benissimo, la distanza poi che ci divide, conta anche quello. Va bene, ciao di nuovo fra, alle prossime, vai di tu per Franco. E quindi io sto dicendo che il problema sono tante le cose sulla condivisione, no? Io ti potrei, se non io ti potrei indicare qui, racconterei tante di quelle cose. Purtroppo anche se una batteria nuova, la macchina, va bene, va tutto in casa, no? La macchina è tutto il mondo, dicendo il nuovo, la batteria dura molto perché è tutto organizzato. Quando questa batteria sulla studi, dopo 4-5 anni, se metti una batteria nuova, che cosa succede? Succede che l'impianto si riempie, quindi hai tutto una perdita, gli alternatori, un lato, c'è la carica del campo nuovo, è tutto un insieme, quindi c'è una perdita generale. È chiaro che la batteria che metti nuova non si può durare più di 5 anni, perché c'è una struttura di cedimento generale che la macchina ha dei consumi. E quindi la batteria dice, se c'è una cosa originale non deve avere più, dice questa non è originale, no, le batterie sono tutte uguali, non c'erano queste batterie che sono io, però c'è un discorso. Le batterie che sono in supermercato non sono solo quelle che sono in supermercato, vale a dire che una batteria da 60 ampere invece è proporzionata alla potenza di spunto, vale a dire una 44 ampere ha ad esempio 250 ampere, una 80 ampere deve avere un minimo 450, quello che vale di più è lo spunto. Io predico una batteria di 10 ampere ma 1000 spunto, perché lo spunto è quello che deve fare. Ah beh certo, questo sì, quello è vero, quello è importante, sì, soprattutto quando il motore è freddo, la mattina, l'inverno, con l'olio che si è condensato, per cui il motore diventa pesante, questo sì, lo capisco, Vito, sì, no, diciamo che bene o male qualcosina già me ne intendo, non è che sono così a zero proprio di preparazione per quanto riguarda queste cose. Sì, è vero, infatti la mia mi sembra che ha 450-500 ampere di spunto, di picco, ho visto, è così, è vero, 60 ampere, 450-500 di picco, adesso non ricordo bene, è preciso se 450 o 500, comunque è così. Ho avuto un richiamo importante e quindi già ci andiamo a fare una bella carica, credo carico che parla molte volte un certo rigore e c'è giusto anche per un po' più di una giornata per filarci e ci sentiamo tutte le cose. È una cosa che sarà un altro di elettronica virtuale un po'. Ciao, buon provvedimento, ciao. Ciao Vito, grazie della chiacchierata anche a te, dai. Buona sera, ci sentiamo. Sì, beh, diciamo che argomenti di tutto interesse se ne sentono pochi, si sentono solo stupidaggini e basta. Vabbè, comunque ogni tanto già fa piacere addentrarsi anche in questioni un pochino più importanti, dai. Ok, ciao di nuovo Vito, alle prossime, fate sentire, la sera già siamo sempre qua, magari un po' tardi, si inizia ormai l'abitudine è intorno alle 6:30 o 7, però c'è qualcuno che entra anche prima, per cui fate sentire Vito, alle prossime, ciao, grazie per la chiacchierata, ciao. Chi è? Non si capisce dalla modulazione, perché è una modulazione sporca, dunque no, ti saluto ma non ho capito che sei. Non ti capisco, non capisco, rassomiglio la voce a Mario Masse, rassomiglio, e rassomiglio la voce anche a Francesco, mi sembra che si chiama, di Sorso, boh, non mi ricordo, l'ex tassista, se ricordo bene, boh. Ci sentiamo allora, ciao, ci sentiamo. Ciao Marco, sta chiudendo, ciao.